E addirittura anche stavolta, nonostante gli interessi europei siano toccati in modo diretto da questa guerra, pronunciare, non dico le responsabilità, ma anche solo il nome di Donald Trump continua a essere un tabù per questa classe dirigente europea. Ieri, mentre mezzo mondo attendeva la conferenza stampa di Donald Trump con trepidazione, perché non sappiamo quali atti improvvidi potrebbe compiere da qui all'ultimatum che ha dato all'Iran, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che è un socialista, quindi rappresenta, come dire, un punto di vista, un orizzonte leggermente diverso da quello di von der Leyen, ecco, persino Costa è riuscito a produrre un post sui social nel quale si rivolgeva all'Iran come se questa guerra fosse stata scatenata dall'Iran e ometteva completamente di rivolgersi agli Stati Uniti o a Israele. È riuscito a citare Putin, ma gli è caduta la lingua o gli è caduto il dito dalla tastiera prima di poter digitare le parole Stati Uniti o Trump. E questo è particolarmente grave, perché ritengo che in questo preciso frangente storico sarebbe responsabilità di tutti, a maggior ragione di chi è al potere, esercitare, come definirla, una moral suasion quantomeno verso gli Stati Uniti, che sembrano diciamo inghiottiti da questa spirale di escalation e di radicalizzazione. Anche i toni utilizzati escono sempre più fuori dalla dimensione della razionalità e entrano addirittura nel mistico e nel religioso. Ieri il ministro della guerra, Franco Trump, ha detto che il soldato che è stato recuperato, il pilota prima disperso, è come un Cristo risorto. Quindi, insomma, sfieriamo i confini della teocrazia. Trump si ritiene monarca assoluto che non deve rispondere delle proprie azioni a niente e a nessuno, e questa guerra produce, lo scrivo, lo dico dall'inizio, enormi conseguenze sulla nostra già infragilita Europa. Quindi questi silenzi, questo clima diciamo omertoso, sono particolarmente gravi nel momento in cui invece questa classe dirigente sembra pronta a dire alla propria opinione pubblica che bisogna andare in lockdown energetico. Quindi siamo al paradosso: deboli col forte e però pronti a proiettarci in una nuova pandemia. Peccato che stavolta le cause non siano naturali, ma siano del tutto umane e politiche, siano frutto delle scelte scellerate del duo Trump-Netanyahu. Tu citavi Costa, c'è anche un tweet, diciamo così, di von der Leyen che accusava l'Iran di provocare un'instabilità globale, in particolare con la chiusura dello stretto di Hormuz. Quindi, insomma, nonostante gli insulti anche che Trump ha rivolto agli alleati, anche quando la NATO non l'ha seguito per l'intervento appunto ad Hormuz, l'Europa resta, diciamo così, fedele a chi la prende a pesce in faccia. Non posso che convenire con la tua sintesi spietata, purtroppo proprio così. Si rimane atterriti, ecco, nel leggere i tweet di von der Leyen in cui attribuisce anche la crisi all'Iran. È chiaro che se lo stretto di Hormuz al momento ha problemi è perché è stata scatenata una guerra che è al di fuori da ogni cornice del diritto internazionale. Von der Leyen qualche settimana fa ci è venuta a raccontare che in fin dei conti è inutile ancorarsi come dei nostalgici a questo concetto del rules based order, dell'ordine basato sul diritto, che bisogna essere pragmatici. Ma dove ci porta il suo pragmatismo? Mi sembra dritti verso il disastro. Quindi sì, chiaramente gli effetti saranno pesantissimi, e tra l'altro mi preme anche segnalare una cosa, perché poi mi rendo conto che già per noi addetti al settore è difficile districarsi in questa ambiguità tra le parole e i fatti. Mi immagino poi, insomma, chi semplicemente legge i giornali o ascolta la radio rischia di fermarsi alle dichiarazioni. Allora, io noto che svariati leader europei stanno cercando di mascherare alla loro opinione pubblica la loro reale posizione, per cui sembrerebbe persino che Keir Starmer sia contro la guerra, o che, non so, altri leader si oppongano a interventi nello stretto di Hormuz. In realtà, sotto traccia, gli europei stanno lavorando anche a un piano per Hormuz. Quindi, cioè, c'è veramente una dicotomia tra quello che viene raccontato ai cittadini e la realtà. L'esempio più marcato viene sempre da Ursula von der Leyen, che continua a utilizzare come slogan quello che lei chiama il momento di indipendenza europeo. In realtà è proprio von der Leyen che, nel giorno preciso in cui stringe la mano a Donald Trump in Scozia l'estate scorsa, gli promette e gli garantisce che ci vincoleremo sempre di più agli Stati Uniti sul fronte energetico, che compreremo dagli Stati Uniti GNL, fossili, addirittura contro anche l'interesse climatico di sostenibilità europea. europeo. Noi vediamo che la Spagna regge bene a questa crisi perché ha investito sulle rinnovabili, mentre l'Italia si avvia al disastro perché dipende dal gas. Anche in quest'ottica, vincolarsi non solo a Trump ma ai suoi combustibili fossili è altro che momento di indipendenza europeo, è il momento kamikaze europeo, direi.